notte a te e al tuo cuscino bianco, senza molte piume, senza alcun rimpianto. Buonanotte amore mio, buonanotte a modo mio, alle zanzare del cortile dove ci ho giocato anch'io. Buonanotte a te e i tuoi dolci pensieri, freschi come l'oggi, mai vecchi come ieri. Piccola illusione, senza tempo, senza età, buona come il pane, la gioia che ci dà. Battere le mani insieme e sentire l'eco che ci riporta indietro, tanto indietro. Non sentire il vento, anche se si sta in silenzio e si respira piano, tanto piano. È una notte senza stelle che ci piove sulla pelle ma non ci bagna. È una notte senza stelle che ci piove sulla pelle ma non ci bagna. Buonanotte a te e alle prime luci rosa di un giorno ancora intatto che mi scorre tra le dita, di una storia un po' sbiadita che non potrei più reinventare, alla tua gioia di vivere e alla voglia di restare. Insieme e sentire l'eco che ci riporta indietro, tanto indietro. Non sentire il vento, anche se si sta in silenzio e si respira piano, tanto piano. È una notte senza stelle che ci piove sulla pelle ma non ci bagna. È una notte senza stelle che ci piove sulla pelle ma non ci bagna.